Raso Festival di Sanremo, truccato o non truccato il televoto, il primo giornale a dare i dettagli di come si è svolto il voto in questa serata drammatica è stato Avvenire. Abbiamo con noi Gigi Orancilio, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Come stai? Tutto bene, grazie. Beh, insomma, sei al centro dell'attenzione, che non è male, insomma, no? Beh, più io il televoto di Sanremo, direi. No, sì, certo, naturalmente, però insomma, i dati sono stati diffusi per primi da Avvenire e leggo oggi quello che c'è scritto. Alle 23.12 di sabato notte, Emanuele Filiberto, Pupo e Luca Canonici per i televotanti avevano vinto il festival con 212.482 voti. Poi nei 53 minuti del rush finale hanno avuto solo 1.384 voti in più, mentre Valerio Scanu ne ha raccolti ben 97.517 in più di quanti ne aveva. Ora, voglio sapere da te una cosa. Al di là della ricostruzione che adesso ci farai di questo televoto, tu pensi davvero che sotto ci sia qualcosa oppure no? Al di là, insomma, del mestiere che hai fatto, che è quello di raccontare e di presentarci i dati. Francamente no. Io penso che non facesse sicuramente bene alla RAI la vittoria di Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici a un passo dalle elezioni e nel clima elettorale e politico in cui ci troviamo. E perché non avrebbe fatto bene, secondo te? Non avrebbe fatto bene perché avrebbe scatenato, come sempre succede ogni volta che si parla della RAI in questo paese, un caso politico. Si sarebbe detto che quella vittoria di Pupo e il principe favoriva la destra alle elezioni, sarebbero venuti fuori moti pseudo elettorali, avrebbero chiesto l'invalidazione del voto, avremmo avuto interrogazioni di parlamentari a Camera e Senato e invece di occuparsi delle cose serie, ancora una volta il Parlamento si sarebbe occupato delle scemenze. Beh, non è detto che non ci capiti lo stesso comunque. Sì, no, lo rischiamo, ovviamente rischiamo. No, io credo semplicemente due cose. La prima è che dopo una certa ora buona parte dei votanti di Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canone si sono caduti per il sonno. Dall'altra è che abbiano votato contro. Cioè, come spesso accade anche in politica da noi, in cui una parte dei voti si prendono contro qualcuno, perché vengono dati contro qualcuno e non a favore di un programma, secondo me contro Pupo ed Emanuele Filiberto sono partiti dei voti che si sono divisi parzialmente su Scanu e parzialmente su Margo Mengoni, cioè una parte dei televotanti hanno votato contro Pupo, indipendentemente dal fatto che gli piacessero le altre due canzoni.